We'll be right back. tempo di organizzarsi. Un secondo, no, prima di tutto facciamo un'altra apertura, perché visto che non hanno fatto partire il podcast, paranoia, ragazzi, benvenuti, abbiamo fatto l'apertura per il podcast. No, siamo anche, non solo ragazzi, perché manca un tecnico, uno speaker, ma abbiamo anche le apparecchiature nuove, perché se non funzionano bene, non ce l'ho da dire. Però il nostro tecnico ci deve ancora prendere un pochetto la mano, giustamente. Quindi ancora lì che sta. Piccolando nei vari istanti, rotelle, vivo, no, Pedro, che la fai? Una canzone di che ok, va bene. La super bella di James Brown. Quello che avete sentito era rumore di tutti e come partita. Esattamente. Bene, super bella, appunto, una canzone di James Brown del 1970. Originariamente si è legato in cover di tre parti. Il brano è andato al numero 1 della R&B chart e il numero 3 di Cucuda Billboard. Il caso della canzone include nel ritornello I Cross Soul e Line Super Bad. L'uso positivo della parola bad è un esempio di linguistica riappropriazione che Brown aveva fatto prima di Say It Alone, I'm Back and I'm Back. La canzone include un sassofono solista di Robert McCullough, durante il quale Brown urla Blowing Song Praise Robert. E questo, spero che faccia, è James Brown che con me si perfetta. Questa era James Brown con Call Me Super Bowl. Stiamo andando benissimo. Stiamo benissimo. Si sta a vedere, io te l'ho detta. Parlavo di 5 minuti a Radio F durante il programma. Andiamo a parlare di Crosby, Stills, Nash & Young e introduciamo la loro canzone di lusso con la nostra solita storiellina. Joy Mitchell stava guardando il festival di Woodstock in televisione e piangeva. piangevo di emozioni per la partecipazione della gente, ma anche perché lei purtroppo non c'era. Il suo manager lo aveva convinto che sarebbe stato bene partecipare al Big Talent Show e non a quello che sarebbe diventato il festival più famoso del mondo. Quando si decise ad andare comunque alla fattoria di Max Jagger, fu punita dai gay, doveva infatti passare a prenderla James Taylor, ma il cantatore rimase coinvolto in un brutto incidente in moto che lo avrebbe tenuto per molto tempo lontano dalle scene. Così Joy Mitchell dovette accontentarsi dei racconti di Graham Nash, che all'epoca era il suo fidanzato, e sulla base di quei racconti scrisse il proprio disco. Una canzone fu un festival che Crosby, Stills, Nash e Young portarono a successo e che Joy Mitchell avrebbe cantato nella sua versione originale in The Ladies of Canyon nel 1970. E Led Zeppelin incorporarono la scrittura e il testo di Woodstock nelle versioni live di Daisy the Confusion, eseguite tra il 73 e il 75. Woodstock, come disse Dead Crosby, è la canzone che racconta il festival di Woodstock migliore di chiunque altra. Un bel paradosso, visto che chi l'ha scritta non c'era. Woodstock, Crosby, Steve Nash, Young. Thank you. anche a fronte, di fronte di te, di fronte di te, e che c'è di fronte di te? Woodstock, Crosby, Steel, Nash & Young. Ci sono i primi molto adesso, ci sono. Già. Contrario in band. Questo brano è un brano scritto da John Fogerty e originariamente registrato da Clearwater Revival. È stato incluso nel loro album Chromo Spazio del 1970, sostenuto con Wool Stop the Rain. È stato uno dei tre singoli di questo album a raggiungere la top 5 sulla Singles Chart Pop degli Stati Uniti e la posizione numero 2 delle classifiche americane, accanto a Looking Out My Back Door, che abbiamo messo settimana fa. Esattamente. Inoltre, Traveling Band è stato anche un successo del Regno Unito, raggiungendo il numero 8 nella UK Single Chart. Il brano è stato ispirato musicalmente dalle canzoni rock and roll del 1950, in particolare quelle di Luther Richards. Nel mese di ottobre del 1972, la società che deteneva i diritti di pubblicazione, Luther Richards, di Hugo Lewis Malley, ha ritenuto che Band Traveling ha partorito somiglianze abbastanza da giustificare un successo per plagio, che è stato poi un accordo stragiudiziale. I testi della canzone descrivono come la vita di un musicista on the road, e questi sono i Credence, Traveling Band. Erano i Credence con Traveling Band. Non so se dico... Sì. Che era The White Stripes, che era sempre in Ash Army, esatto. Perché 7 anni fa, proprio di tutto? No, chi lo sa. Abbiamo vinto il nostro primo mondiale della nostra vita, perché io nel 82 non c'ero, tu c'eri? No. Comunque questa canzone di Italia 1990, esattamente, era l'inno dei mondiali Italia 90. Sì, è indissolubilmente legata alla competizione per nazioni calcistiche più importanti del mondo, che è la Coppa del Mondo. E questi sono Gianna Marini e Edoardo Bennato con Notte Magica. I'm going to go to the next one. Di Fabri si fa un cuore con gol, quindi Notti Magiche, la canzone vincente questa settimana del conto che avete scelto. Sì, che avete scelto è la canzone che alla fine ha vinto tra gli altri, quattro. La canzone che aveva scelto il nostro carissimo Luca, che no, giustamente oggi ricordiamo non c'è neanche il tecnico biondo. Volevo ricordare così tutti gli amici che hanno detto oppure se qualcuno si fosse dimenticato che fa fatto il podcast almeno l'abbiamo detto non questo problema per essere davvero un team rivolto in tre concili dai riprendiamo con la storia del rock seconda parte della seconda parte. Sì, ma bravo, la seconda parte che viene in la seconda parte. E andiamo a parlare di Science, è un brano della rock band canadese, Five Men Electrical Band. È stato scritto da Les Emerson e ha reso popolare la band che fino a quel momento era un po' sconosciuta. Il brano è estratto dal loro secondo album Goodbye and Butterfly del 1970. La canzone è stata rilasciata in un'epoca di un cambiamento sociale e politico. I suoi testi portano temi di intolleranza e di esclusione. Nei primi versi della canzone, il protagonista principale, Luigi, esprime la sua frustrazione per una serie di bimbi che non sta toccando. Sì, sento friggere. Certo. Sai com'è? Prego, grazie. Il protagonista principale, Luigi, esprime la sua frustrazione per una serie di segni che incontrano. Uno dei segni, uno di questi segni, sarà con una domanda o con l'opera di lavoro da gente che ne capiva lunghi, quindi diciamo in quegli anni chi aveva capito lunghi praticamente era all'inizio, ma un po' tutti ce l'avevano, quindi anche perché un po' tutti erano mentre un altro segno esprime la discriminazione nei confronti dei gruppi, come nell'entrare in locali di club di lusso senza essere giudicati o essere, diciamo, come queste persone. Nella parte finale, Lippi condivide le sue esperienze andando in una chiesa, dopo essersi ricordato che gli ha letto un cartello che diceva: "Ognuno si è benvenuto, entrate e ginocchiatevi per pregare". Mi viene chiesto di contribuire alle offerte, tuttavia quando si rende conto di non avere i soldi, lui tira fuori un pezzo di carta e scrive su di esso: "Grazie a me, per pensare a me, ma sono vivo e sto facendo del bene". La versione dell'album ha una durata di poco più di 4 minuti, 4 minuti per 6 minuti, mentre il singolo 45 giri è più breve e dura solo 3 minuti e 20 secondi. Se meno spazio. La versione singola permette l'apertura ad hoc con un tamburo intricato e una sezione ritmica di chitarra. E adesso è un paio di mani messi dal band con Sun. And silence is all you really think of. Need all the time. So much. And the way I made I'm One Man Band con il singolo. Il ritornello che sarà la riconoscete sicuramente. Ma appena senti partire di che caso il ritornello che la parte di sì. Poi il primo singolo del suo quarto album, Plea for the Tillerman, è stato pubblicato nel 1970 e da quel momento il suono di Stevens è cambiato. Soprattutto dopo aver lasciato la casa discografica originaria per Dream Records per firmare con la Island Records. Nuova Bon Jacon è stato il suo primo album pubblicato dopo un anno di recupero dalla tubercolosi. Durante questa sua lunga convalescenza trascorsa per lo più a letto, Stevens si è ritrovato a diventare un compositore molto più prolifico. E dopo questo drammatico episodio, che lo ha portato vicino addirittura alla morte, Stevens ha cominciato a concentrarsi sullo scopo della sua vita. Questo lo favorì a ritrovare un suono nuovo, folk rock, e di scegliere come nuovo produttore Paul Samuel Smith, ex degli album. Abbiamo già messo qualche settimana fa. Con Fama Smith a sostenerlo, Stevens ha cominciato ancora una volta a fornare dischi di successo con un significato e profondità diverse, sia nei testi che nelle melodie, a cominciare da Mona Bon Jacon e continuando con Plea for the Tillerman, dove Wild World è diventata una popolare canzone di successo sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. La critica e Stevens concordano sul fatto che questo album e le canzoni in esse contenute sono alcuni dei suoi migliori lavori. Due piccole curiosità veloci veloci loro. Stevens sviluppò una relazione di anni con una giovane donna americana, Patty Dumbleville, durante la quale scrisse diverse canzoni su di lei. Una di queste è proprio Wild World, che è stata pubblicata come singolo alla fine del 1970. Essa non è riuscita per un tocco ad entrare nella top 10 dei Billboard, piazzandosi all'undicesimo posto della Billboard Pop Single Chart. E ora Cat Stevens, Wild World. I'm going to go to the next one. Cosa succede? Andiamo a parlare di American Woman. Ora ragazzi, dato che un po' di pazienza, come abbiamo detto, siamo molto ridotti, siamo tutti e cinque, ma il Linda è bravissimo, bravissimo, Linda, eccolo. Allora, abbiamo detto che è una manualità, le nuove attrezzature, pazzesco, cioè, assolutamente. Quando dice magari si fa un'altra canzone invece che questa, poi dopo vediamo un po' di bella, vediamo un po' che cosa vengono. Beh, ma tu, una favolta. Allora, mi fa regalo perché... Bene, Vegasi, questa canzone che andiamo ad annunciare è American Woman. Kitchener, Ontario, 1970. I Guess Who sono sul palco quando si rompe una corda della chitarra, le spoglie Randy Beckman. La cambia e ne trasforma il strumento all'improvviso, dalle sue dita, parte il ritmo. Gli altri musicisti voltano la testa e gli vanno dietro, improvvisando. A un certo punto, Batchman urla al cantante. Canta qualcosa, così dice la radio. E Barton Cummings, senza nemmeno pensarci, esplode in American Woman, Stay Away From Me. Così. A pazzo. La folla ruggisce, le donne canadesi impazziscono, gli escuri ringraziano e continuano il concerto. Ah, erano in Canada perché sono America del Nord. Una volta tornati nei camerini riflettono a quello che è successo e si lavorano tutti sopra. Nel testo riversano le loro esperienze di gruppo canadese. Caramelizzato in America è un momento difficile. Tra il Vietnam e la libertà sono innegati e soffocati. Ecco dunque che la donna americana alla quale si rivolge il protagonista sia in tema delle ragazze del grande paese, sia come hanno confermato in interviste mentre il gruppo la statua della libertà che simboleggia i principi libera pari e democratici, per ora rispettati dall'America del Nord. American Woman, grazie di noi per passarmi questo momento. American Woman volò in testa alle classifiche facendo The Guess Who, il primo gruppo canadese a diventare il numero uno in America, perché come si sa, i canadesi americani non è che proprio si vogliono un buono, non tantissimo. Un po' di rivalità, quindi era una cosa un po' strana che il gruppo canadese arrivasse al numero uno in America, nonostante il boicottaggio di alcune radio. Richard Nixon impedì loro di eseguire quella canzone, quindi American Woman, quando si eseguirono alla Casa Bianca, sempre nel 1970. Lenny Kravitz ne ha fatto una bellissima cover fantastica di tanto conosciamo. E anche più famoso dell'originale. Sì. Esatto, è uno di quei casi in cui la cover diventa molto più... Ha continuato la carriera lui, la canzone. Lui ha fatto tante altre canzoni bellissime. Però con American Woman, diciamo, va bene per questo, va a pensare a American Woman. Lenny Kravitz ne ha fatto una bellissima prove, come stavo dicendo, per il film Austin Power, bellissimo, e l'ha eseguita anche insieme ai guest di 21 settembre 2000 a Toronto, nel 2000 a Toronto, in Canada, in Canada. Che due volte nel 2000 e nel 2005 è stata votata miglior canzone canadese di tutti i tempi dalla rivista Chart Magazine. Yes, come on, American Woman. Bene, fantastico, l'avevi detto, l'avevi detto, 30 secondi. Vedo che la gente che non si sta con una manualità per questo mondo ha fatto tutto il lavoro. Ma è normale che non si sia accende quello? Noi mi sembra che d'altra parte, perché magari... Vai, prova. Vediamo un po'. Allora, The Get You, American Woman. Woman di Guess Who, e che abbiamo disannunciato sempre io, scusa. Però parlo anche per il pane. Stavo molto in bagno, molto convinto. Ero convintissimo. Molto simile alla versione del Ferri Fabrizio. Praticamente un bel classico uguale. Ha fatto sì, ha fatto la sua versione, però ha mantenuto sempre un po' l'originale dei Guess Who. Beh, adesso ci sono i Beatles. Esatto. Per il campionato. Esatto. Pensa a te quanto sono stato cattivo, che lo so, che leggi tu i Beatles, invece io faccio leggere al mondo. Ma io so due cose che voi mi avete scritto. Ciao ragazzi. Allora, beh, adesso appunto ci sono i Beatles. Con la TV. Let It Be è il titolo dell'ultimo disco e del relativo brano guida pubblicato dai Beatles. Registrato presso che è interamente in prova diretta, ovvero senza incidere svariate versioni per scegliere la migliore, mentre prendendo parti delle varie takes o facendo delle sue versioni. Il medio di gennaio del 1969 viene distribuito soltanto l'anno successivo, cioè nel 1970, l'anno dello scioglimento ufficiale del gruppo. La rivista Rolling Stone ha inserito l'album al 392° posto della sua lista di 500 migliori album. Con ben un'ultima fatica in studio di 4 minuti, quella fosse stata la registrazione di Abbey Road, avvenuta nell'agosto del 1969, nelle sale di registrazione ispirata appunto situata appunto in Abbey Road, nella sequenza cronologica della loro discografia, le TV compare per ultimo. La ragione di questo è la ragione di questo scambio effettuato. Lo spunto originale che generò quello che attraverso la passaggio avrebbe assunto la forma distintiva di Let It Be l'ha fatto risalire al 45 giri che conteneva Pages sul lato A di questa lista. Anche con la parte e Revolution sull'altra facciata. Hai detto. Un anno, visto che abbiamo parlato di questo, ma in testa non è una cosa, è un particolare, particolare al minuto promozionale del singolo che Vito si girava il 4 settembre del 1968. Ora riceve in Michael Wolfley, Todd, gli studi fuori di Michelin. Esatto, è famoso, famosissimo, infatti. Ho detto che certo, appunto, l'anno perché è famoso c'è lo stadio dove gioca la Serie di Verdi. Appunto, bravo, non ce la fai, non ce la fai. Il rumore di tutti i tempi è lo stadio nazionale. Bene, avete capito? Ok, grazie Nanni. In questo circostanza il gruppo avrebbe dovuto suonare davanti a un numero limitato di invitati selezionati, ma il passaparola fece radunare un pubblico molto più numeroso del previsto, che si assicurò. Quasi non dice niente questo, venivano ripresi da altre istituzioni di prova di tutti. Questa situazione risvegliò i miei Beatles in entusiasmo per le esibizioni live e dividere di esibirsi un nuovo grande concerto al vivo. Il progetto, il quagnetto concepito con il titolo Get era stato ideato da Paul McCartney, forse il più attivo e lucido per questa fase della distribuzione, con un recupero di questa Come un recupero di questo della sua show live che li aveva caratterizzati all'inizio della loro carriera. Come un ritorno all'origine e non solo, per tutto quello che è. L'idea di fondo era che, al pari del primo disco, Please registrato in un'unica seduta di 12 ore in 1969, i Beatles potessero abbandonare le strumentazioni elettroniche e sovraincisioni a vantaggio delle registrazioni in prove diverse. Allora, se ora lo sai, no? Questa canzone, che non c'è scritto qui su Scaliscia, sapete chi l'ha scritta in realtà questa canzone? No, l'ha scritta per i Beatles. Okay. L'ha scritta per i Beatles. Non lo so, non vorrei dire per la madre la scritta per la madre. E un'altra cosa che pochi sanno è che a John Lennon questa canzone non piaceva per niente, perché Let It Be letteralmente significa lascia scorrere, cioè lascia andare, tra virgolette, fai sciolto, fai conto. visto che John Lennon era uno di quelli che invece era molto... che non lasciava andare... Sì, nel senso lui era molto rivoluzionario, combattiva per le cose che per Antonio non gli piaceva molto. Diciamo così. Questa è la pastra, è una bella curiosità. Beatles, ho letto B. E sto canale è un pai canale. Un attimo, il dettaglio di oggi è un'altra prova, fonti e di G. Vale. Let it be, people. Ma non ci sento io. Forse mi guarda con questo riso che gli ho preso in balletto. Sì, vuol dire, vai, padre, bisogna annunciare. Let it be, dico, allora fai di fare. L'avevamo detto con l'onda. Che dovevi annunciare il proprio momento, perché abbiamo finito la seconda parte del mio. Aspetta, io adesso, momento citazione. Ho fatto le scelte, le più belle frasi, per riempire la scaletta. Sono bellissime frasi dette dai più grandi cantanti e membri di gruppi rock e non italiani, non italiani. E infatti la prima è proprio di italiano. Vero? forse un giorno si scoprirà che da qualche parte esiste un piccolo genio, simpatico ma a volte un po' rompicoglioni, che invoglia, stimola e spinge alcuni di noi a riunirsi nei bar. Max Pensai. Pezzali, anzi, non ma Pezzali, 883, e questa canzone era contenuta nel primo CD all'uscita di L'Uomo Ragno. Mi ricordo ancora la produzione del CD. Canzone, te la ricordi? Bellissima. sulla strada che l'ambulanza di campo. C'era un uomo bravo. E poi se hai letto bene la citazione, spingo qui noi a rinunciare al bar, noi non siamo quel caso, io. No, assolutamente. Che posso fare l'eternità. Sì, è vero. Canzone storica. Adesso la scuola citazione, a lei. Grazie. Penso che siamo la più grande rock and roll band del mondo. Joy Ramone, cantante dei Ramones, My Brain is Jogging Upside Down. My Brain is Jagging Upside Down di Ramones, che tra l'altro era più corte il suo tempo fa, però non vinse. Non ho ancora capito perché. Io ho messo una canzone fantastica questa settimana. Allora, la mia era vinta, scusa. Avevo la mia, ma per favore, ma vai via. Questa volta ce l'ho, ricordo che ti percorso. Per forza. Ma io questa volta ho voluto fungere un po' alternativo, per dire. Dai ragazzi, era l'ultima canzone di oggi, di questa puntata. Noi ci risentiamo settimana prossima. Mercoledì prossimo. Purtroppo oggi risentiamo Luke e il nostro tecnico biondo, che oggi non c'erano. Oggi, ripeto, formazione molto, molto ristretta con le tre. Io sono Spazio, accanto a me Nanno. Per due, ricorda il podcast. Ricordiamo il podcast della puntata che già da domani potete trovare sulla nostra pagina Facebook del Taglio Rock and Roll, Radio Vaticana, dove potete mettere mi piace. E il contest, come tutte le settimane, quindi già da venerdì, potete scegliere la vostra canzone preferita tra le nostre cinque. Ciao a tutti. Thank you.